Inizia il secondo appuntamento di questa settimana di Arden Daily. Prima parte, come ieri, dedicata alle novità. Seconda parte troverete, scusatemi il gioco di parole, la seconda parte dell'intervista con Tobias Sammet Avantasia, con la voce di Claudia e naturalmente le canzoni legate a questo nuovo progetto del terzo prodotto di Avantasia che arriverà tra pochissimo. Noi iniziamo come al solito ringraziando il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e il nostro autore Simone, che mi impone come prima traccia e prima band di quest'oggi Seven Tears, usciti su Frontiers Record, album d'esordio per questa giovane band svedese, gruppo nato nel 2000 col nome di Demon Slave, cambiato nel 2005 in Atlantica, e dopo molti diversi cambi di formazione e cantanti, la line-up stabile arriva finalmente nel 2006, dove cambiano ancora il nome e diventano Seven Tears. Registrano un demo che gli vale un contratto con la Frontiers, che pubblica questo album d'esordio dal titolo In Every Frozen Tears, dal quale andiamo a proporre le note di questa Hollow Ground. Sono i Seven Tears in apertura di Arden Daily. Album d'esordio In Every Frozen Tears, il gruppo è quello dei Seven Tears, con le note di questo motivo dal titolo Hollow Ground. Andiamo invece ad una nuova project band creata dal chitarrista e leader degli Artension, cioè Roger Staffelbach. Musicalmente si tratta di un power metal di stampo neoclassico, il gruppo si chiama Angel of Eden. La band è completata dal cantante Carsten Schulz, dal batterista Rami Hali, dal tastierista italiano Mysteria e al basso come ospite il bravissimo Steve Di Giorgio. In tema di special guest vi è anche il cantante John West degli Attention ed ex Royal Ant in una canzone, Dave Schenkeld ex Manowar e Ferdy Dunberg della band di Axel Rudy Pell. L'album presenta 10 tracce prodotte dallo stesso Roger. Oggi andiamo a presentarvi le note di Angel of Eden, che esce sull'etichetta spagnola Lion Music, dall'album The End of Never, Angel of Eden. Abbiamo ritrovato quindi gli Angel of Eden con questo loro album, questo progetto del chitarrista degli Attention, e passiamo agli Enemy of the Sun, altro progetto per il chitarrista produttore tedesco Waldemar Sorikta, già noto per aver suonato nei Grip Inc. e recentemente negli Eyes of Eden, e soprattutto aver prodotto album di Moonspell, Lacuna Coil, Tristania, solo per citarne alcuni. Questo nuovo progetto si chiama Enemy of the Sun, risale al 2006 e è arrivato all'esordio alla fine del mese di dicembre con questo album dal titolo Shadows, dal quale andiamo a proporre le note di Satisfied by Ego Porpius per la band degli Enemy of the Sun. Chiamano Enemy of the Sun, prodotti da Waldemar Sorikta, dall'album d'esordio Shadow, Satisfied by Ego Porpius. E anche per questa sera arriviamo all'appuntamento consueto con le Metal News. Metal News. Ci sarà un tribute album dal titolo Baptized in Blood per il Lizzy Borden, pubblicato dall'etichetta Metallic Charging Records. Ci sono 10 tracce, una delle quali è interpretata anche da Graham Bonnet dal titolo Red Run. Sempre l'etichetta fa sapere che è previsto successivamente un tribute album ai Crimson Glory dal titolo The Revenge of Azrael. Iron Steel, questo è il nome della band che vede il batterista dei Seven Dust, i bassisti Dave Ellefson, ex Megadeth, e Raquel Bolan degli Skid Row e Jim LaMarca dei Chimaira. Il gruppo sta registrando alcune tracce in quel di Atlanta. Glenn Hughes, il grande cantante inglese, tornerà in Italia per due date, 26 di maggio a Bologna, 27 maggio al Music Drone di Milano. Tour italiano anche per i Tigers of Pentang, storica band della New Wave British Heavy Metal, che attualmente hanno un cantante italiano. Suoneranno ad aprile il 10 all'Auditorium Flog di Firenze, l'11 al Music Drone di Milano, il 12 al Lucille di Verona, il 13 al Sottotetto di Bologna. Questo per i Tigers of Pentang. Parliamo invece di George Bellas, che pubblicherà il 15 febbraio un album solista per questo bravo chitarrista, già noto per aver suonato nei Ring of Fire di Mark Bowles. L'album si intitolerà Planetary Alignment. Nel frattempo George è uscito sul mercato con un suo progetto a nome Palas Terras, composto da tre elementi ed autore di un interessante prog rock a tratti neoclassico, gruppo creato dallo stesso George Bellas, che per completare la line-up ha reclutato il cantante Jonathan Marshall e in seguito il batterista Sasha Horn. Cominciano così a comporre le tracce sino ad arrivare alla registrazione di questo concept che si intitola Flying Through Infinity, dal quale noi andiamo a proporvi le note di Chaos Theory. Si chiamano Palas Terras. progetto del chitarrista George Velas, si chiamano Palace Terras, esce per la Lion Music, etichetta di Madrid. L'album si intitola Flying Through Infinity, questa era Chaos Theory, che abbandoniamo per parlare proprio di una band spagnola, i Sandalinas. E usciranno alla fine di questa settimana con il secondo album, Fly to the Sun. Loro sono di Barcellona e sono in quattro. Sandalinas è anche il nome del 33enne leader chitarrista Jordi Sandalinas, che creò il gruppo nel 2000. Dopo aver scritto alcune canzoni, decide di rivolgersi a Andy LaRocque, chitarrista dei King Diamond, per la produzione. Nel marzo del 2005 arriva l'esordio Living on the Edge, che vedeva alla voce il bravo Apollo Papatanasio. L'album gli permise di andare di spalla a Malmsteen e Scorpions. Questo secondo lavoro vede diverse variazioni di line-up. Alla voce troviamo Rick Halsey degli Advance, mentre il resto della formazione che ha suonato nell'album è completato dal batterista Patrick Johansson di Malmsteen, dal bassista Mick Cervino dei Blackmore's Night. Diversi gli ospiti come Chris Caffery dei Savatage, Andy LaRocque di King Diamond, Derek Sherinian dei Dream Theater, ex Dream Theater. L'album è stato realizzato completamente in Svezia con la produzione di Andy LaRocque. La copertina è stata disegnata da Derek Riggs, che ricordiamo ha realizzato la maggior parte delle copertine degli Iron Maiden. Li ascoltiamo col brano che dà il titolo all'album, Fly to the Sun. E arriviamo a chiudere la prima parte del nostro appuntamento di questa sera di Arden Devi. Poi vi lascerò, come abbiamo già detto, con la seconda parte dell'intervista a Tobias Sammet. con Claudia, e chiudiamo con la regina del symphonic rock che è ritornata con questo Red Planet Boulevard. Si chiama Lana Lane, album pubblicato dalla Frontiers Record. Andremo ad ascoltare una parte di questa lunghissima traccia intitolato Capture the Sun, e noi ci ritroveremo appunto più tardi con la seconda parte con Claudia e Tobias Sammet. A domani, ciao! Eastern dreams sail on eternally. The wonder in this. Abbiamo ascoltato Shelter from the Rain, una canzone che fa parte del nuovo album per gli Avantasia, che uscirà il 25 gennaio. A parlarne con noi quest'oggi il buon Tobias. Volevo sapere dal caro Tobias, insomma, perché con l'album precedente aveva chiuso un concept, adesso invece giustamente con un nuovo album ne avrà aperto uno nuovo. I had to open a new one. I opened, in fact, a new one. I didn't want to continue the old one, as it was over and it was written by some guy who was 22 years old and wrote about... Ah, this beautiful German singer. And the new concept is something completely different. It's, I would say, kind of Faust's story. It's about a young man with a distorted sensual perception. And because of his distorted sensual perception, which is a kind of handicap for him, he grows up emotionally isolated from his environment. Wow. Yeah, and what did you smoke to I was writing my personal memories, so memoirs. And as a substitute for affection and love, which he doesn't feel because he is isolated emotionally, he starts to discovers the skill to perceive sounds differently than or different from other people, and he develops a passion for music because it has a healing, easing impact on him. And therefore he gets more and more passionate about playing his music as well and composing his music, and it's about a classic composer, if you like, so in that way, 18th century, and he becomes more and more famous, and all of a sudden he gets appreciation and approval from the world around, from those people who thought he was handicapped in the first place. And that way he experiences a rise on the social ladder, and the higher he climbs, the closer he gets to all sorts of temptation that go along with the success he has. Mm-hmm. And then it becomes a kind of, you know, Faust story, exploring the inner depths of the human soul. And Sounds like a movie. I don't know if it sounds like a movie. It's a bit like Faust. I think the guy felt like Edward Scissorhands. It's a little bit the Edward Scissorhands story as well. It could be. Yeah, the guy at the beginning that everyone is making fun of him because they think he's weird, but then he's like a genius, but you don't know, and then he becomes important and blah, blah. So it really sounds like a soundtrack to a movie. Okay, I should make a movie. Yes. I should sell it and make money on a movie. Mm-hmm. I'm gonna do it, and then we're gonna get married, right? Okay. Okay. When I'm rich, I'm gonna get married. When I'm rich. Allora, gli ho chiesto di cosa si parla di questo nuovo album, no? E giustamente quell'album precedente, che risale a 5 anni fa, mamma mia, quando l'ha scritto, tra il primo e il secondo album, Tobias aveva 22 anni. Sono veramente ne è passato di tempo. No, I was saying that if we consider that the previous record is from 5 years ago, and also the first one, you were so young, and I mean, just make me realize how fast, you know, the time is. Getting old. We're young. No, we are getting more experienced. Like a good wine. Yeah, exactly. Well, no, because I was thinking also the first time you came here with that guy. Wow, many. I was a child. Yeah, you were. Actually, you were. Yeah. I was just, where has the time gone? Mamma mia, I feel like a mom for you guys, you know? Like, I see you guys growing and becoming successful and stuff, so... I feel like a child next to you. You're not that much older. I mean, I feel like your mom. Talking about, you know, the career and that side, and not like age and... That's why I said before, you know, that a lot of... I think we got along with so many other bands because for them, you know, we I don't know what it's called in English, but you know, something like the puppy instinct. Mm-hmm. You know, that mature adult animals have towards little animals, you know. That's what everybody has, so there was no competition between all those Halloweens and Gamma Rays and Ed Guy, you know, because they all thought, oh, the little ones are coming, look at how cute you are, little Toby. But now you kick their ass. No, we're friends. No, but the little puppy years ago, but now you're a successful band and stuff, so... Now we're one of them. Yeah, exactly. Okay, yes. Allora, dice, si ritornava un po' al discorso di prima, dice, molti artisti, con molti artisti andiamo d'accordo, tipo gli Halloween e i Gamma Ray, perché ai tempi loro ci vedevano come i piccolini, come i cucciolini, no? Quelli freschi, quelli nuovi della scena, che però nel frattempo comunque sono cresciuti, adesso sono come loro, hanno un grandissimo successo. Io ricordo le prime interviste con gli Edguy, mi erano dei boccia praticamente, adesso ormai sono cresciuti. Comunque, per parlare del concept del nuovo album, il concept ruota intorno a questo personaggio, un giovane ragazzo molto bello. Dice, io ai tempi stavo scrivendo una sorta di diario delle mie memorie, e dice, tutto parla di questo personaggio che ha un modo tutto suo di vedere la realtà, vive quasi in una dimensione parallela, chiamiamola così, e quindi vive tutte le sue esperienze, vive tutte le sue emozioni in modo suo, e automaticamente questo lo porta un po' a essere isolato dagli altri, perché gli altri pensano che sia un po' un tipo strano, un po' uno sfigato, un po' così. Invece in realtà questo ragazzo è una specie di genio, perché lui inizia a comporre musica e insomma la musica che compone diventa di grande successo, e praticamente lui crea questo rapporto molto stretto con la musica, riuscendo a creare delle cose molto belle, diventa di grande successo. Poi tutta la gente che all'inizio lo prendeva un po' in giro e che così gli dava dello sfigato praticamente, si rende conto che è un grande. Lui, arrivando in questo ambiente così famoso appunto per la musica, cade ovviamente nelle diverse tentazioni, ma alla fine riuscirà a vincere. Questo insomma è il concept che ruota intorno al nuovo album. È difficile vederli dal vivo in concerto, perché ok, c'è una formazione, però anche difficile giustamente magari con tutti gli altri ospiti. Però so che nel Wacken 2008 è confermata la presenza degli Avantasia, right? I knew you talked about Wacken next year. This year. Yeah, because This year, 2008. Yeah. Because I guess now you have your band, Avantasia has the band, but I guess it's very hard to because you have to get so many guests, so many musicians. So, but I know that you're confirmed to this year's Wacken. So. Yeah, we're gonna headline a bunch of European festivals, and we're probably gonna bring it to South America as well. Mm. So we agreed on having a time frame of June and July with some members of Avantasia. Where we said, okay, in this time we will try to get the festivals and we will headline festivals, and I think everybody's very excited about it. Of course, I cannot expect that everybody will have time. You know, I talked to some of them. Sasha's going to be there. I talked to Jorn and he wants to do Jorn, and I talked to Eric. Is it Eric? I talked to Eric as well, and Eric wants to do it, but it depends, of course, on his schedule with Kiss and Alice Cooper. So it's really hard to confirm anything at this point. Yeah. But I think we're gonna have a good chance because we're gonna play a bunch of real, you know, big headline slots. Mm-hmm. And I think that's interesting for all of us because it's a good thing and it's gonna be a fun time together. So I don't know, you know, we're not gonna come with 10 singers or 11 singers, but I think we're gonna come with 4 or 5 or 6 singers, mm-hmm. and a big ensemble, a band, and a backing vocalists and a big stage production. So I think, you know, I think we will do our best to leave a big impression. Yeah, okay. Allora dice che ovviamente non è proprio una cosa così semplice, anche se abbiamo deciso di lasciare il mese di giugno e di luglio per quanto riguarda diversi festival. Siamo comunque intenzionati a fare headliner, ad esempio si parlava del Wacken Open Air del 2008. Dice è anche difficile combinare tutti gli impegni degli altri, quindi Eric ci sarà, Jorn probabilmente ci sarà, Sasha Pett probabilmente ci sarà, e quindi stiamo cercando di fare una cosa grande a livello di produzione. Cerchiamo di 4-5 cantanti, vogliamo che sia una cosa veramente massiccia, d'impatto, una cosa che ovviamente poi la gente possa ricordare. Ma io non posso lasciare andare via il buon Tobias senza chiedergli almeno qualcosa, un aggiornamento sugli Ed Guy. I cannot leave you without asking, I mean, a little update. We split up. No. you were afraid for a second. You see my face? Yeah, that was like, funny. Oh, usually it doesn't work when I do things like that. But I haven't said that. Because I'm like, oh no, really? Oh my god, no one told me. Oh my god, that's embarrassing. You were No, we just played a festival last weekend. No, I mean, many weeks ago, we played a festival. It was way back in November, I think. No, it was December. the first of December. It was, mm-hmm. Yeah. So it's about 8 weeks ago, something like 8 weeks ago, and we actually started writing new material right now. You're going to do a reunion. Yeah, we're gonna do the reunion show, and we're gonna record Mandrake Part 3. Oh dear. We're not gonna do part 2. We're just gonna start with part 3. Yeah, exactly. Because we wanna be trendsetters, not followers. No, it's mi fagli scherzi. No, we will. I think, you know, with that guy, everything is. We are doing fine. Okay. We have already started rehearsing for the new album. We really have. And I think early 2009 we'll be ready with a new album. I'm really. That's a schedule at the moment. And well, we're right now sorting out ideas. And okay, but going back to the Avantasia show, are you going, like, as you said, you are going to headline some festivals? Are you going to record something to put out, maybe a DVD next? We've been asked about that, and of course, I mean, the festivals that we have in mind right now, they all have recording teams there. So, but first of all, we gotta make sure we're gonna do something big for the moment, mm-hmm. You know, and then we're gonna think about if it's a good idea to record it or if we should record it or not. Probably we will. Everybody records, you know. We're confirmed to headline Masters of Rock. I think today another festival was confirmed down in Southeast Europe, but I don't know which one. Like I said, Wacken is confirmed. What? I like that festival. Yeah, I don't know the name. I don't know even which country it is. But I remember a third festival was confirmed today, and there's like 3 or 4 festivals they are talking to, the agency. So, and I think basically all of those festivals that we have confirmed so far, are good chances and options to shoot a DVD there. Mm-hmm. So we'll see if it will happen. I think if we get a good chance to do it and it makes sense economically, we'll definitely think about it. Yeah, people should see you, I mean, before and after the shows. Because that's the real show sometimes. Before and after the show. Yeah, after the show is the... With the towel in your hand, on your head, signing stuff. That, those are moments I will never forget. And I think people need to see that. Yeah, I don't think so, but you know, opinions are so different, you know. Come on, because sometimes it's nice to for people, you know, sometimes you go to see a show and you're curious to see what happens before, what happens after, to leave the band also in this way. So I like home videos. No, I mean... well, yeah, each to his own, right? I mean, of course, you can, I mean, it's okay. Bands videos, no, what did you understand? Yeah, that and kind I know what you mean. Yeah, okay. Yeah, that band home, you know, like after show. After No, I mean, backstage, I mean... Yeah. Okay. Oh my God! Why are we going? I was trying to say something nice. What happens in the venue? Around. Yeah, something so pure. Innocent. Yeah. Yeah. How many home videos from bands? You know, I mean, traveling the world and stuff. Well, that's funny, and we have done one ourselves with a band with that guy. Yeah, showing you know sightseeing stuff and stuff like that. And it would be cool, but you know, so people would probably illusions would fall to pieces, you know, if people would see how boring it can be to wait for a show. Everybody hangs out, you know, checks emails, and then then the tour manager comes. Yeah, everybody's got a laptop. Like online, laptop, wireless, online, checking the MySpace page, writing emails, updating websites, and hey guys, 5 minutes, towers, boom, stage. Sometimes it's really like that. With that guy, it's a funny thing with that guy. I don't know how it's going to be with Avantasia, but with that guy, it's like we really, really, really have a lot of fun. Before and after the show as well. It's just like, usually it's like a big kindergarten. Yeah, it is. You know that. I mean, we enjoy ourselves, and I don't know if people should see that, but you know, I don't mind if they want to see that. We can film our backstage activities and show them. Yeah, they will think, nice. What the fuck are they smoking? No, you guys are good guys. Like, I already saw Sonata Artica recently, and before the show, so sober. After the show, not that much. Well. So that's also a nice side of some bands. So, if you guys don't want to do that DVD, I'll do it with all the secrets and stuff. You already have filmed it, right? Here, last time. Allora, sì, gli ho chiesto. Allora, per quanto riguarda gli Edguy, mi ha fatto anche uno scherzo, mannaggia, l'avrei ucciso, mi ha detto ci siamo sciolti, io per 2 secondi sono... ho detto no, che figuraccia, invece no, non si sono sciolti, è tutto a posto, anzi stanno già pensando a un nuovo album. Nel mese di dicembre hanno suonato anche a un festival, appunto con gli Edguy, stanno già pensando a un nuovo album, quindi pian piano inizieranno a fare le prove. Ho chiesto se per caso in occasione di alcuni festival dove loro come Avantasia saranno gli headliner, se hanno per caso in mente di registrare un DVD o qualcosa, anche perché è bello vedere una band in concerto, però spesso e volentieri magari sei curioso di vedere cosa fanno prima, dopo il concerto, quali sono, come vivono questi momenti, cosa fanno mentre viaggiano col loro tour bus, una cosa, quell'altra. Lui dice, ma non so se magari questi momenti sono così interessanti perché potrebbero comunque rovinare dei miti, no? E dice, ad esempio, molte band prima del concerto stanno lì con il loro portatile a controllare le mail, sono molto noiosi, noi invece ci divertiamo un sacco. E quindi dice, poi vabbè, ci sono stati un paio di doppi sensi, una cosa, quell'altra, però ovviamente si parlava di DVD registrati prima o dopo i concerti. Dice, però in questo momento, giustamente per quanto riguarda gli Avantasia, siamo concentrati sullo spettacolo, sul concerto, ci hanno già chiesto di fare dei DVD, però adesso stiamo confermando la nostra presenza in diversi festival e poi vedremo comunque, insomma, cosa, se questo DVD ci sarà o meno, però per il momento abbiamo altre priorità. Oh no, bel fieu. What was that? I said, oh no, bel fieu. Oh no, bel fieu. Yeah, what does which it mean? Is in the kind of a dialect here from Milan. It means right, nice and guy. Yes. Ok, ecco. E quindi ricordiamo Scarecrow, è il titolo del nuovo album Avantasia, uscita il 25 gennaio. E poi tanti festival. Chissà se torneranno in Italia. When are you coming back to Italy? At latest with a new Edguy album in 2009. Boh. 2009, where are we? No, it's not even 1 year. you know. Yeah, exactly. Yeah, exactly. It's but you know, with Avantasia, I don't know. It depends, you know. Nothing is confirmed yet, you know. I can't say that it's not going to happen, but at the moment it doesn't look like it's going to happen, and I'm very sad about that. But yeah, let's see how the album's doing. Again, you here. Should ask people to play in Italy and tell to these people, oh, she works for the festival. We want to play the Gods of Myth. Do you remember that? Yeah. When you did that in Milan, and I was sitting on the stairs, and people watching at me so badly, like, hey, they should play the Gods of Myth. And I was like, it's not me. And yeah, you were like, look at her. No, I'm sorry. It's okay. Don't worry. So, but we, of course, you know, Italy is waiting for you guys. So, come back. I know. We will come back. Ok. Dice, per quanto riguarda l'Italia, per il momento, dice, al massimo ci vediamo con il nuovo album degli Edguy, però quello arriverà non prima del 2009. Dice, non so se per quanto riguarda gli Avantasia c'è qualcosa in ballo. Gli ho detto, potresti farmi fare un'altra figuraccia come anni fa, dicendo, chiedendo al pubblico di votare per la nostra esibizione al Gods of Metal e dicendo al pubblico di guardare me, quando io in realtà non c'entravo assolutamente nulla con questa esibizione. Però va bene, se non mi mette in imbarazzo lui non è felice. Quindi, thank you very much for being here. Thank again. You for having been invited. You know, it's our pleasure. It's my pleasure. No, it's mine. Okay. Okay. It's our pleasure. Okay, it's our pleasure. Okay. Okay. E ci ascoltiamo un'altra canzone. You know, I have to look for. I'm getting old. Quindi ci ascoltiamo un'altra canzone. Another Angel Down. Loro sono gli Avantasia. Thank you very much again. Bye. Thank you. Ciao.